dentro al suono. Bugiardi, bastardi, codardi, ma quanti sono? Sono troppi, gli dai un braccio e te lo rubano. Non so se renda la faccenda, poi a vicenda si incula. Non lo conosci, l'amico al tuo fianco che ti sfrutta. Quello che non dice mai un cazzo, ma dilla tutta. È grazie a gente come te che sono diventato schivo. Trap aperitivo e tutto molto creativo. Peccato che mi faccia schifo nel mentre me la spliffo. Dilla tutta stronzo, ma non dirlo allo sceriffo, che con gli infami sicuro vai a braccetto. Menti così tanto che menti pure a te stesso. Pensare fa male, è come la testa contro il muro. Ma non pensare, farai del male a qualcuno. La fama è il vostro scopo ed è per questo che tradite. Ma la forza di voler apparire che scomparite. Quante cazzate ancora sentirò, quando arriverò all'estremo sai che scoppierò. Ma non ti mentirò, rivendico l'ennesimo diritto di potermi esprimere come vorrò. E quanta voce ancora perderò, eretico di fronte a orecchie sorde non convincerò. Ma tu non perderlo, quel monito che ti darò. Vedrai che insieme a grazie a te risplenderò. Dilla tutta dallo sterno che il tuo inferno non si butta. Seguo i tuoi pensieri come bave su una figa asciutta. Intanto immagino che frughi nei bidoni della spazzatura. Sei insignificante, un infante caricatura. Per quanto ti distingui sempre uguale, sei banale. Ti inietto confessioni nell'epidurale. Poi ti infetto dalle tue stesse illusioni da normale. Senti come sale il vino a un povero mortale immorale. Mi conosci, ma non scavi mai in profondità. Sei il personaggio del tuo personaggio della pubertà. Dove nasci, come vivi, cosa fai, chi sei? Dorian Gray, quanti succhi a cazzi che vogliono i cazzi miei. Stai pensando che funziona, la trovi una cosa buona. Ti accorgi che sei solo mentre sopra il cielo tuona. Non c'è connessione, se non c'è connessione. Umana cognizione, condizione, questa è un'opinione. Quante cazzate ancora sentirò, quando arriverò all'estremo sai che scoppierò. Ma non ti mentirò, rivendico l'ennesimo diritto di potermi esprimere come vorrò. E quanta voce ancora perderò, eretico di fronte a orecchie sorde non convincerò. Ma tu non perderlo, quel monito che ti darò. Vedrai che insieme grazie a te risplenderò. E sai che meglio dirla tutto oppure niente. Non viviamo d'apparenze, siamo gente fatta d'anime e coscienze. Vuoi pensare al tuo presente, tieni sempre bene a mente che ogni azione indifferente porta in fondo gravi conseguenze. Le esigenze sono i fatti dei dibattiti che attui, sembra quasi te ne sbatti. Batti chiari ma inesatti, dire e fare sono infatti tratti opposti da distacchi, acqua e ponti, sai, bisogna accendere passi. Troppo facile se scappi inutilmente, terzi versi sugli spazi ed è evidente che agli scazzi alzi i tacchi. Troppo semplice, semplicemente o rimani o te ne vai, sai, questione di tendenze. Quante cazzate ancora sentirò, quando arriverò all'estremo sai che scoppierò. Ma non ti mentirò, rivendico l'ennesimo diritto di potermi esprimere come vorrò. E quanta voce ancora perderò, eretico di fronte a orecchie sorde non convincerò. Ma tu non perderlo, quel monito che ti darò. Vedrai che insieme a grazie a te risplenderò.